Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di Mozart, un grandissimo della musica, ma ne parliamo in una chiave abbastanza inconsueta che ci viene proposta da Leonetta Bentivoglio e Lidia Bramani, saggista e scrittrice la prima, musicologa e scrittrice la seconda, che hanno insieme scritto il libro, e Susanna Non Vien, Amore e Sesso in Mozart, è pubblicato da Feltrinelli, 286 pagine, 16 euro. Al centro delle analisi delle due autrici ci sono i tre capolavori di Mozart, cioè Le Nozze di Figaro, Il Don Giovanni e Così fan tutte rispettivamente del 1786, 1787 e 1790. Tutte opere, dicono le due autrici, nelle quali Mozart scandaglia ogni aspetto dell'amore, esplorando problematiche radicate nella nostra identità. E queste problematiche hanno a che fare con l'amore, con l'identità sessuale, con le pulsioni sessuali, con la tentazione di legarsi a più persone contemporaneamente, con la scelta di essere single e tanti altri aspetti che vengono affrontati in questo libro, analizzando appunto le tre opere. La loro analisi infatti ci aiuta a scoprire squarci insospettabili nell'arte di Lorenzo da Ponte, che fu il librettista delle opere e naturalmente dello stesso musicista Wolfgang Amadeus Mozart. Per esempio si inizia nel libro con un esame del rapporto di sorellanza che le autrici individuano tra Susanna e la contessa nelle Nozze di Figaro, oppure troviamo alcune figure femminili in Don Giovanni che vengono particolarmente scandagliate, o il rapporto di infedeltà introdotto da Così fan tutte. Non sono, dico, le autrici delle licenze poetiche, queste alle quali si dedicarono Mozart e da Ponte, invece sottolineano come la visione della vita e del mondo di Mozart guida le scelte musicali con le quali interpreta il Don Giovannismo, riferendosi ovviamente al Don Giovanni. Ma adesso su questo e su altri aspetti sentiamo una delle autrici. Buonasera Lidia Bramani. Buonasera. Lidia Bramani, ascoltiamo allora alcune arie dal libro che ha scritto con Leonetta Bentivoglio. Le propongo innanzitutto questa testimonianza, chiamiamola così, di Donna Elvira tratta dal Don Giovanni. Che cosa rappresenta quest'aria di Donna Elvira e in particolare la figura di Donna Elvira nel teatro mozartiano? Beh, la figura di Donna Elvira è una figura estremamente moderna come la maggior parte dei personaggi femminili dell'opera. Elvira è una donna che io e Leonetta Bentivoglio abbiamo definito con un termine molto comune oggi, una donna che ama troppo, perché è quasi totalmente schiava di Don Giovanni e non riesce mai ad affrancarsi dall'amore che prova per lui, amore incondizionato, che la porta, come in quest'aria che mi dice Michael Barbaro dov'è, a passare spesso da dramma, furia, desiderio di vendetta, coscienza degli inganni che subisce dall'uomo che ama, a una sorta di passiva soggezione di cui lei si rende perfettamente conto. E musicalmente la cosa davvero interessante è che in tutta l'opera Donna Elvira è spesso connessa proprio melodicamente e armonicamente a Don Giovanni e a Leporello, vale a dire a i tre ruoli che si identificano e spesso quasi si sovrappongono a quelle dello stesso Don Giovanni. Questa invece era Fior di Ligi nel Così fan tutte, l'aria Come scoglio in moto resta, nella quale che viene introdotta, come voi ricordate, con una parola, inorridisci, per dare il senso del fatto che l'amore può essere anche drammatico. Sì, certo, Fior di Ligi è un altro personaggio femminile profetico, perché Fior di Ligia è una donna che ammette esplicitamente di amare due persone. In quest'aria lei si dichiara ferma appunto come uno scoglio inattaccabile da qualsiasi sentimento erotico che pure lei già sente crescere dentro di sé. Quindi è convinta in quest'area drammatica che riuscirà a non subire il fascino di Ferrando, ma in realtà sia musicalmente, perché spesso loro hanno figurazioni ornamentali che li accomunano, ma anche come carattere, come stile, come impianto drammaturgico, in realtà i due sono molto vicini e quindi di lì a poco, nonostante la ferma convinzione di resistere alle lusinghe di un nuovo amore, Fior di Ligi ci cadrà, non smettendo peraltro di amare Guglielmo, come lei stessa dichiara. Quindi diciamo che presagisce quello che al giorno d'oggi si chiama comunemente poliamore, cioè la possibilità di amare più persone contemporaneamente. E considerando che tutto questo viene visto per la prima volta dal punto di vista femminile, Fior di Ligi è un personaggio che, lungi dal remare verso una sorta di misoginia dell'opera, come spesso è stato detto, è in realtà un personaggio di molieriana memoria che rivendica indirettamente, musicalmente e drammaturgicamente, il diritto ad amare più di una persona, come era sempre stato concesso solo ai maschi. E sempre così fan tutte, a un certo punto irrompe anche la malizia. Abbiamo ascoltato alcune battute dell'aria di Despina. Sì, certo, Despina addirittura rivendica la possibilità per le donne di divertirsi con gli uomini come loro fanno con le donne, poiché secondo Despina, fin da quando si ha 15 anni, si impara a dover gestire il maschio che mira solo al proprio godimento e al proprio egoismo, tanto vale assumere sembianze maschili, quindi una sorta di single ante litteram che decide di assumere atteggiamenti tipicamente maschili e non se ne fa il minimo problema, arrivando addirittura a dichiarare che perché no, una cameriera può anche lei avere due cicisbei, vale a dire due amanti. Adesso abbiamo ascoltato dal Don Giovanni Zerlina, che voi catalogate tra l'altro nel capitolo dedicato alle donne del popolo mozartiane. Ecco, che cos'hanno queste donne del popolo che le caratterizza? Le donne del popolo sono molto simpatiche a Mozart, come peraltro si sa anche dall'epistolario. Mozart era abituato a frequentare donne di tutti i ceti sociali, a parlarne sempre con grandissimo rispetto. In tutto l'epistolario non c'è una mezza frase maschilista. Zerlina è forse il punto estremo del femminismo mozartiano, incarnato in un ruolo della sua trilogia da Pontiana e forse di tutto il suo teatro, perché Zerlina è una donna del popolo che naturalmente viene imbonita e rimane sicuramente affascinata dal grande nobiluomo che le dice: io cangerò tua sorte, cioè tu sei degna di un'altra vita, non di vivere con un bifolcaccio vil, come lo chiama lui, come mi ha detto, quindi con un contadino. Lei ha un momento di cedimento notissimo nell'accedere la mano, e poi però ci ripensa grazie all'intervento di Elvira, all'intervento degli altri personaggi, a ciò che nell'opera fa sì che cada il velo di tutte le menzogne di Don Giovanni. La cosa straordinaria, essendo una donna vera, una donna del popolo, tra le più belle, le più commoventi dipinte da Mozart, è che riesce a riunirsi a Masetto, che aveva tradito nel giorno delle sue nozze, in pochissimo tempo, in modo totalmente autentico, come le arie di riconciliazione con lui ci dicono, in maniera incontrovertibile, e nel momento in cui Don Giovanni tenta per la seconda volta di stuprarla, cioè diciamo per la seconda volta di stuprare una donna, perché la prima è stata Donna Anna, con lei invece aveva prima usato altri modi, quando poi lei ha cambiato idea cerca di violentarla, lei grida, chiama soccorso e tutti gli altri personaggi intervengono, compatti, Masetto compreso, e anche gli altri nobili ruoli, Don Ottavio, Donna Anna, Donna Elvira, e nessuno di loro dice: ma come, fino a poche ore fa tu amoreggiavi con lui, gli davi corda e adesso ti lamenti, cosa che ohimè purtroppo succede ancora oggi. No, assolutamente no, Zerlina ha cambiato idea, si è riconciliata con Masetto, ha capito chi è Don Giovanni, non ci vuole più stare, e in quel momento tutti gli altri personaggi, Mozart per primo, si schierano con lei, e la musica ce lo dice in maniera veramente sublime. Quindi un personaggio davvero femminista ante litteram. Concludiamo con Don Giovanni. Lo giudicate un paradosso, ipocrita patentato, scrivete, è diventato emblema della lotta all'ipocrisia. Perché? Perché è veramente un paradosso, nel senso che Mozart nelle sue lettere non fa che criticare atteggiamenti dongiovanneschi. Mozart non era un libertino, ma era un libertario. Questa è una delle tante incomprensioni e dei tanti fraintendimenti che purtroppo lo hanno ricoperto di scorie, per fortuna non la sua musica. E tutta la musica di Don Giovanni ci dice che questo personaggio è un nobile parassitario che viene pesantemente criticato perché approfitta dei deboli, approfitta dei miseri, e quindi offre il destro a chi ritiene che il desiderio sessuale debba sconfinare nella violenza, nel sopruso, e quindi in realtà porge sul piatto d'oro tutte le motivazioni possibili ai bacchettoni. E purtroppo invece è stato preso come emblema, così come la frase che lui dice "viva la libertà", che viene totalmente decontestualizzata, considerando che Don Giovanni dice questa frase nel momento in cui cerca di far venire più gente possibile a una festa che ha palesemente organizzato per poter approfittare della ragazza che dice di voler proteggere insieme a suo marito. Quindi tutto il libretto e tutta la musica ci dicono che Don Giovanni non è assolutamente un eroe positivo. Basti pensare che al povero vilipeso Don Ottavio Mozart dedica note altissime, mentre a Don Giovanni dedica 3 arie, delle quali 2 non sono neanche in prima persona, ma sono tanto per cambiare, nelle vesti di Leporello, e l'altra è "Fincan dal vino piena la testa", che è detta aria dello champagne ed è infatti di liquidità estrema, nel senso di Bauman e della liquidità di cui si parla tanto filosoficamente al giorno d'oggi, cioè lui vuole portare più ragazze possibili, lo dice esplicitamente a Leporello, glielo ordina, a danzare, perché vuole che in quello che oggi chiameremo uno sballo, cioè in questo avvicendarsi di danze diverse, lui possa ancora una volta approfittare delle donne, quindi un po' quello che succede oggi nelle discoteche. Don Giovanni è un personaggio squallido, ipocrita, esattamente come Molière l'aveva dipinto, e molti non sanno che Mozart amava e conosceva Molière, quindi uno dei primi punti di riferimento letterario e filosofico per la figura di Don Giovanni è proprio quella di Molière. Grazie a Lidia Bramani, autrice con Leonetta Bentivoglio di "E Susanna non vien", amore e sesso in Mozart. Buona serata. Buonasera, grazie a voi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Parliamo adesso di scienza e partiamo con un autore molto popolare, Flavio Oreglio, che prosegue la sua storia curiosa della scienza affrontando il periodo che va dal Tribunale dell'Inquisizione al Tribunale della Ragione, pubblicato da Salani, 160 pagine, 14 euro. Questo è il terzo volume della serie, con un'introduzione di carattere storico che ci fa capire l'ambiente culturale in cui maturarono molte evoluzioni, anzi addirittura in certi casi delle autentiche rivoluzioni in campo scientifico, e naturalmente incontriamo i protagonisti di queste rivoluzioni: Copernico, Keplero, Bruno e Campanella, Bacone, Cartesio, Newton, Leibniz e altri, e il tutto con un linguaggio semplice, lo stile accattivante al quale ci ha abituato Oreglio. Tra le varie grandissime figure di scienziati troviamo naturalmente anche Galileo Galilei. Nell'introduzione al libro di Oreglio, anzi, un docente universitario di Milano, Stefano Morigi, cita proprio lo scienziato italiano sottolineando la forza eversiva e antiautoritaria propria dell'impresa tecnico-scientifica, quella stessa forza che Galileo Galilei descriveva e rivendicava in un celebre passaggio della lettera a Cristina di Lorena. E quest'opera, La lettera a Cristina di Lorena, è pubblicata da La Vita Felice, 110 pagine, 10,50 euro, con le note di Giovanni Gentile all'edizione del 1943. Questa lettera di Galileo è una lettera del 1615, nella quale lo scienziato difende le proprie scoperte dalle accuse di eterodossia, ed è seguita questa lettera da un'altra coeva, un monsignore romano, e un'altra ancora, un prete pisano. A Cristina di Lorena, che era la granduchessa madre, e agli altri interlocutori, Galilei argomenta la compatibilità delle teorie di Copernico con il pensiero religioso. Galileo Galilei afferma che la teoria secondo la quale il Sole gira intorno alla Terra era dovuta all'esigenza, scrive egli stesso, di non confondere la poca capacità del vulgo e renderlo renitente e contumace nel prestar fede agli articoli principali che sono assolutamente defide. In fondo, aggiunge Galileo con un sottile ragionamento, i padri della tradizione religiosa non avevano alcuna ragione di dubitare che fosse il Sole a girare intorno alla Terra. E dunque non venne mai loro in mente di condannare, oggi diremmo di falsificare, l'opinione contraria, e quindi questa opinione non si può considerare una verità di fede. E Gentile nel suo commento sottolinea appunto come Galileo rivendichi i diritti della libera ricerca scientifica, sottratta per la natura della sua finalità a quell'ordine di cognizioni che la teologia faceva dipendere dall'insegnamento scritturale. Galileo ritroviamo tra i cercatori di meraviglie. Questo è un titolo di Amedeo Balbi, che è un astrofisico e divulgatore. Sottotitolo è Storie di grandi scienziati curiosi del mondo, è pubblicato da Rizzoli, 254 pagine, 18 euro. Incuriosito fin da piccolo dalle origini dell'universo, Balbi ha dedicato la sua vita scientifica a questo tema, seguendo un metodo particolare. Dovete porre la domanda nel modo giusto, dice Balbi, dovete ridurre tutte le complicazioni non necessarie, minimizzare il rischio che la domanda venga fraintesa, isolare il fenomeno che state studiando da tutti gli altri fenomeni che potrebbero interferire, e tanti altri passaggi che indicano un metodo con cui si può fare scienza. Questo metodo fa risaltare la straordinarietà di molte figure della ricerca che sono state capaci appunto di perseguire questo metodo, e qui alcune di questi scienziati che ci fanno anche arrivare agli sviluppi attuali della scienza e della fisica. Un'altra serie di scienziati, in un altro libro di divulgazione scientifica, troviamo sotto il titolo Scienziati troppo avanti, 20 precursori in anticipo sui tempi. L'autore è Laurent Lemire, pubblicato da Odoia, 266 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Roberto Macellari. Qui si parte da Leonardo da Vinci, un genio molto segreto. E perché segreto? Perché, scrive l'autore, lavorava molto ma mostrava poco. Nel suo studio fiorentino esplorava il mondo senza uscire troppo da casa. Così finì per inventarlo. E poi troviamo altre figure, celebri, anche meno celebri, di autori di svolte scientifiche, scelti perché, pur essendo magari passati in secondo piano, fecero procedere in maniera determinante proprio la scienza, che che non, senza di loro non sarebbe andata, scrive l'autore, nello stesso modo. E ricorda l'autore un passo di Margherita Yourcenar che sosteneva: avere ragione troppo presto equivale ad aver torto, quasi anticipando appunto il tema di questo libro, che troviamo qui, Leonardo l'ho citato, ma anche Copernico, Mandel, Poincaré e altri meno noti, fino a Higgs, l'intuitore della particella fantasma, il famoso bosone, la cui scoperta recente non conclude certo la ricerca scientifica, come dicono queste righe di Lemire. Nel caso di Higgs, l'aver avuto ragione troppo presto suggerisce il divario tra modello teorico e verifica empirica. E questa ragione cosa può dirci del mondo? Capire i primi istanti dell'universo, sapere come si è formata la materia, prevedere come ne sia emerso il tempo. Il mondo non si riassume in un'unica equazione. Il bosone di Higgs è un pezzo chiave del grande meccano universale della materia, ma più si avanzerà nell'infinitesimale, più ci si renderà conto che manca sempre un pezzo affinché l'edificio regga e possa essere spiegato. La ricerca del pezzo mancante fa avanzare la conoscenza e la curiosità, oltre a permettere all'uomo di sfuggire al proprio destino. La scoperta del bosone è solo una tappa per testare le teorie che vanno oltre il modello standard nella descrizione dell'universo. Di numeri di matematica si parla invece nel libro di Simon Singh, La formula segreta dei Simpson. L'autore è un scienziato di formazione, autore di documentari, giornalista scientifico. Questo libro è pubblicato da Rizzoli, 306 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Carlo Capararo. I Simpson sono stati oggetto di studio da parte di filosofi, di psicologi. In realtà, ci dice l'autore, il significato autentico della serie dei Simpson ha a che fare piuttosto con i numeri. La verità, scrive Singh, è che molti degli autori dei Simpson hanno una passione viscerale per i numeri e il loro più grande desiderio è somministrare a piccole dosi bocconcini di matematica al subconscio degli spettatori. In altre parole, aggiunge, per oltre due decenni siamo stati indotti con l'inganno a seguire un'introduzione animata a ogni genere di argomento matematico, dall'aritmetica alla geometria, dal pi greco alla teoria dei giochi e dagli infinitesimali all'infinito. E infatti gli autori di Simpson hanno tutti un background scientifico. David Cohen ha una laurea in fisica e poi anche gli altri autori sono o matematici o fisici. E non si tratta naturalmente di matematica di serie B, scrive l'autore, infatti addirittura in una puntata della serie dei Simpson ha fatto capolino anche il celeberrimo Stephen Hawking. E a questo punto... Il confettino. Si può leggere un libro ai bambini prima di farli dormire anche parlando di numeri e ci prova con successo il libro La matematica della buonanotte, una buona scusa per stare alzati fino a tardi, di cui è autrice Laura Overdeck, con le illustrazioni di Jim Payot, è pubblicato da Vallardi, 96 pagine, 14 euro, tradotto da Barbara Ponti. Anche questa autrice è una scienziata e un'astrofisica, anche lei, e questo libro è frutto dell'esperienza con i propri figli, ai quali da quando avevano 2 anni l'autrice ha proposto ogni sera un indovinello di matematica. Insegnare la matematica, ci dimostra, può rivelarsi divertente anche nella vita quotidiana dei bambini. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il libro di James Frey e Nils Johnson Shelton, Endgame The Calling, è pubblicato da Editrice Nord, 492 pagine, 16,40 euro, tradotto da Ilaria Katerinov. Questo è un romanzo che è un enigma e questo enigma dà vita a una vera e propria caccia al tesoro basata sugli indizi disseminati nel libro. Sono in palio $500,000 per chi saprà risolvere questo enigma. La caccia è aperta ovviamente in rete, si è aperta il 9 ottobre e si concluderà, se ne nessuno farà meglio, il 7 ottobre del 2016, quindi un vero libro interattivo fra lettura e gioco, ed è in arrivo anche un film basato su questo libro. Poi vi segnalo di Franco Scaglia L'erede del tempo, questo è pubblicato da PM, 246 pagine, 16,50 euro, che ha protagonista il custode di Terra Santa, cioè il padre francescano al quale è affidata la cura dei luoghi santi a Gerusalemme, che nel romanzo sarà coinvolto, prima di partire per un'altra destinazione, in uno strano delitto che metterà in pericolo egli stesso. E poi vi segnalo di Vittorino Andreoli, il noto psichiatra, Il corpo segreto, è pubblicato da Rizzoli, 318 pagine, 19 euro, e qua si affronta il tema personale della malattia e del dolore. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberto Scaltriti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.